10 anni dopo l'ultima riforma abbiamo pensato di mettere mano ai nostri quartieri per renderli più efficaci, per migliorare gli strumenti di partecipazione, e quindi si avvia un confronto sia con i gruppi consigliari che con i cittadini su dove portare questi strumenti, che vanno assolutamente resi più forti. Quindi si parlerà anche dei nuovi poteri, delle nuove funzioni e di come in questi 10 anni hanno funzionato, anche alla luce del bilancio partecipativo, dei patti di collaborazione, di quegli strumenti che abbiamo un po' introdotto nella città di Bologna che hanno permesso a tante persone di partecipare. Perché è importante avere questa riforma? Intanto perché 10 anni dopo i quartieri lavorano su bisogni nuovi dei cittadini. Sono nati in anni nei quali la politica era una cosa diversa, ai tempi di Dozza, di Dossetti, dei partiti, corpi intermedi che li hanno immaginati. Oggi le persone partecipano in modo diverso, c'è una grande crisi della democrazia, c'è molto astensionismo anche in tutte le occasioni in cui si va a votare, e io penso che non bisogna partecipare solo quando si vota, e già lì vediamo che le persone hanno sfiducia, ma soprattutto durante il percorso amministrativo. So anche che la nostra amministrazione da alcuni viene criticata per i percorsi di partecipazione o di mancata partecipazione. Io credo che sia il caso di ascoltare le critiche e di utilizzare il percorso che ci diamo anche per rivedere i nostri strumenti, disponibili a cambiare e migliorare, per fare in modo che anche chi ha i margini o chi si sente escluso possa dire la propria e fare pesare le proprie idee, le proprie esigenze. Sindaco, a margine chiedo di quello che sta succedendo al San Donato San Vitale, con i problemi tra coalizione civica e la maggioranza e il PD e la presidente Locascio, quindi voglio capire che cosa sta accadendo e che cosa potrebbe succedere. Ma io mi auguro che trovino una soluzione all'interno del Consiglio di quartiere per uscire da questa impasse. Mi sembra che ci siano questioni anche personali e quindi attendiamo fiduciosi che le possano risolvere. Io invece le chiedo una domanda riguardo le critiche arrivate ieri dalla Borgonzoni e l'invito anche a fare un'assemblea pubblica per parlare della Garisenda e dei dati che appunto secondo lei non sono stati chiariti in modo veritiero. Sì, noi siamo disponibili a dare tutte le informazioni che la sottosegretaria vorrà, perché il comune è una casa di vetro e ha sempre dato al ministero quello che il ministero gli ha chiesto, quindi siamo a disposizione per un incontro se lo vorrà. Ecco, però credo che sia importante dire che la Garisenda è in questo momento dentro a un percorso di cantierizzazione e di progetto di messa in sicurezza che è seguito da un gruppo di esperti con dei sensori che giornalmente ci dicono le condizioni di salute, e vale quello che ho già detto nei giorni scorsi, che l'obiettivo è finire entro il 2028 e nelle prossime settimane passare in quella nuova fase dove dobbiamo montare sia i tralicci che intervenire sulla torre. La modalità che abbiamo scelto l'abbiamo già presentata, recentemente abbiamo visto con i sensori un movimento leggermente diverso dai movimenti che ogni giorno la Garisenda ha, e questo ha richiesto una riprogrammazione dell'intervento nelle forme e nella tempistica, proprio perché è una struttura molto, molto delicata e unica al mondo. Credo che questa debba essere la cura e l'attenzione alla quale diamo, insomma, che rivolgiamo alla Garisenda, e dobbiamo lavorare insieme, uniti per il simbolo della nostra città, senza divisioni o polemiche.